per cominciare la prima puntata di Pump Up the Volume. Anche se abbiamo cominciato un po' tardi, le prossime volte potrete ascoltare Pump Up the Volume dalle 8 alle 9, cercheremo di essere sempre più puntuali. We'll be right back. Per presentare questa trasmissione vi diciamo soltanto che tutti i sabati vi accompagnerà così come aperitivo prima della vostra serata preferita con un po' di musica che spazierà tra la techno, la minimale e comunque anche la techno quella di una volta, quella che prima ancora di chiamarsi techno era ancora house. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Abbiamo da poco passato la mezz'ora qui su Pump Up The Volume, sullo streaming di Radio Pirata 38.

press us. Love those who fight. Siamo quindi all'ultima traccia, Pump Up the Volume, Pump Up the Volume di la di... E ci riproviamo. Allora, questa è l'ultima traccia, così vi salutiamo da Pump Up the Volume, dalle frequenze in streaming di Radio Pirata 38. We'll be right back. radiopirata38.noblogs.org.